Da Roma è stato lanciato l'appello allo stato di agitazione permanente per monitorare e difendere la roba su una bottiglia e verso ovviamente un nuovo sciopero generale. E sono state lanciate anche le 100 piazze per Gaza che si andranno a comporre in questi giorni. A Bologna siamo partiti da ieri sera dopo l'assemblea pubblica. 100 piazze per Gaza che servono per sedimentare le forze ma pronte a mobilitarsi nuovamente. Stando a guardare quello che sta succedendo, quindi servono per tenere alta l'attenzione, ma l'obiettivo è costruire la forza per andare verso un nuovo sciopero generale. Quindi insomma in Piazza Nettuno ci sarà un presidio permanente? Sì, assolutamente, già questa notte abbiamo iniziato a dormire con le tende, invito tutti e tutte a passare, faremo banchetti sindacali per alfabetizzare lo sciopero, visto che è uno strumento che è ritornato prepotentemente nella scena pubblica, faremo aggiornamenti dalla flottiglia con i collegamenti, quindi invitiamo tutti e tutti a passare perché sarà un presidio permanente che è partito da ieri notte. In questa situazione insomma già abbastanza calda, a Bologna si va ad aggiungere questa manifestazione, questo presidio definito antisionista organizzato da Forza Nuova per oggi a Bologna, in cui ci sono anche i leader nazionali. Voi avete indetto per le 18 a Porta Lame un presidio. Sì, assolutamente. Noi riteniamo che antisionismo significa antifascismo. Rispediamo al mittente come realtà sociali e politiche, mondo del lavoro, qualsiasi tentativo di strumentalizzare la questione palestinese, le piazze che si sono messe in moto in questi mesi, in questi giorni, da parte di questi fascisti di cui la storia è nota, e riteniamo che Bologna, città medaglia d'oro della Resistenza, non debba dare spazio a queste provocazioni di fascisti. Sarà presidio convocato, TOSB sarà presente, altre realtà sociali e politiche, Potere al Popolo, Cambiare Rotta e molte tante altre realtà, le 18 in Porta Lame per ribadire che l'antisionismo è anche antifascismo, per cui rispediamo al mittente tutte queste strumentalizzazioni da parte delle destre estreme per avere visibilità in questo momento storico difficile.